E nelle ultime settimane, nonostante il silenzio della maggior parte comunque dei media occidentali, la Tunisia è stata al centro di numerosi episodi di protesta e di cambiamenti politici. In tutto il paese si sono infatti susseguite una serie di manifestazioni che avevano come fine principale le dimissioni comunque degli uomini legati al regime, che sono ancora molti e sono ancora detengono ancora posizioni di potere. Ritornando un po' indietro a circa tre settimane fa, la prima coalizione che avrebbe dovuto guidare il paese in questa fase transitoria è stata, come sappiamo, duramente contestata. Prima dall'opinione pubblica e poi in seguito anche da alcune forze politiche e non solo, anche sindacali come l'UGTT, che ha riconosciuto tra le righe, insomma, l'appartenenza di questa coalizione, il legame di questa coalizione con il regime di Ben Ali. Contemporaneamente i partiti dell'opposizione, personalità politiche, membri dell'UGTT, della società civile, negoziavano per creare un'istituzione poi chiamata Consiglio della Rivoluzione, un'istituzione extra costituzionale che si sarebbe dovuta occupare della transizione, elaborando le leggi, in particolare quella elettorale. Ma vediamo in maniera più dettagliata cosa è successo, anche seguendo un filo cronologico, nelle ultime tre settimane. Allora, il 23 gennaio del 2011 a Piazza Mohamed Ali ci sono stati numerosi scontri tra sindacati. Si parla principalmente di scontri tra sindacati dell'insegnamento, in quanto il principale sindacato dell'insegnamento ha deciso di iniziare una serie di scioperi per esigere le dimissioni del governo di transizione. Ovviamente all'interno delle forze sindacali non erano tutti d'accordo, perché c'erano delle voci che appunto vedevano in questa operazione o comunque in questa forma di protesta un modo per fare esplodere comunque la situazione sociale già delicata. Dopo questa protesta significativa, ma anche dopo, diciamo, una serie di contestazioni da parte di quasi tutte le forze, insomma, vive, diciamo così, in Tunisia in questo periodo, ci sono state le dimissioni del governo di transizione. Il 27 gennaio il primo ministro Mohamed Ghannouchi ha annunciato la formazione di un nuovo governo. Questa formazione è stata, ricordiamolo, negoziata a lungo con l'UGTT e i ministri legati a Ben Ali sono stati cacciati, sono stati allontanati e sono subentrate delle nuove figure che sembrano essere state accolte, cioè, con maggiore convinzione dalla popolazione. L'UGTT ha quindi accettato la nuova composizione di governo, però la commissione amministrativa del sindacato ha chiesto anche la revisione di tre commissioni nazionali costituitesi recentemente. Nonostante quindi un'accoglienza, diciamo, un po' più convinta di questa nuova coalizione da parte della popolazione, ha continuato a protestare, cioè contro comunque soprattutto la nomina sempre recente di 24 nuovi governatori che, secondo appunto le forze politiche, ma soprattutto la popolazione civile, sono ancora affiliati all'RSD, il partito di Ben Ali, ricordiamolo. La tensione sale in Tunisia poi invece all'inizio di febbraio. Questi episodi vengono in realtà anche raccontati dalla Repubblica, anche se sommariamente, però vengono raccontati e principalmente si racconta che il 4 febbraio due giovani sono morti per un incendio divampato nelle celle di sicurezza della stazione di polizia di Sidi Bouzid. Ricordiamo la città dalla quale, con il sacrificio del giovane Mohamed Bouazizi, lo scorso 17 dicembre è partita la rivolta popolare che ha portato poi alla caduta del regime di Ben Ali. La morte di questi due giovani ha innescato una serie di manifestazioni anche violente fin dalla stessa notte. Il giorno dopo, quindi il 5 febbraio, la polizia ha sparato su un folto gruppo di manifestanti nella città di Lekef, nel nord-ovest della Tunisia, uccidendo almeno tre persone, questo riferiscono le fonti locali, mentre erano in corso scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Il bilancio sarebbe stato, secondo la televisione di Stato, invece di un morto e 17 feriti. Dopo gli incidenti, per ordine del ministro dell'Interno, il commissario capo della polizia di Lekef, Khaled Ghazouani, sarebbe stato arrestato. Perché? Perché in realtà era proprio per chiedere la sua sostituzione, accusandolo di abuso di potere nell'esercizio delle sue funzioni, che alcune centinaia di persone avevano dato vita alla manifestazione. In Tunisia, in questo, diciamo, in questo, all'inizio di febbraio, il governo decide, per stemperare la tensione, di sospendere le attività e di chiudere le sedi dell'RSD, il partito del deposto presidente. In realtà, se lo scopo era quello di sciogliere la tensione divampata, le tensioni divampate in tutto il paese, non si può dire che l'obiettivo sia stato in realtà raggiunto. Lo dimostrano i movimenti di protesta che alcuni cittadini hanno organizzato in diverse regioni del paese per chiedere appunto le dimissioni dei nuovi governatori. Un articolo pubblicato da Tunisia Watch ci illustra a grandi linee quali sono stati i principali focolai di protesta nelle varie regioni tunisine. A Bizerte i manifestanti hanno scandito slogan contro il regime e i suoi simboli. Alla protesta si sono aggiunti quadri e funzionari del governo regionale che hanno tentato di impedire al governatore di prendere possesso delle sue funzioni. Manifestazioni simili poi ci sono state a Kairouan, dove la strada principale che conduce al centro della città è stata interrotta dalla folla. L'esercito ha tentato di disperdere i manifestanti che volevano impedire l'insediamento ufficiale del governatore. Altre proteste ci sono state poi a Gabes, a Kebili, alla Manuba, a Gazouan, a Siliana, insomma tutte proteste spontanee, tra virgolette, gestite dalla popolazione che chiedeva o un miglioramento delle condizioni di vita e l'allontanamento di quelle figure politiche ancora legate all'RSD. Una notizia interessante riguarda invece il blocco dei manifestanti davanti al Parlamento, dove lunedì 7 febbraio era prevista alle 10 del mattino la seduta plenaria della Camera dei Deputati. La seduta era stata convocata per l'esame di un progetto di legge sull'abilitazione del Presidente della Camera ad interim, Fouad Mezzabah, a promulgare dei decreti legge conformemente alle disposizioni della Costituzione. Secondo il primo ministro Ghannouchi, i deputati avrebbero dovuto insomma autorizzare il Presidente della Camera a governare con l'aiuto di decreti legge fondamentali in questo momento di tensione e di questo momento politico così delicato, ma sempre rispettando le richieste della popolazione. I deputati tunisini hanno poi autorizzato Mezzabah ad adottare appunto questi decreti riguardanti in particolare l'amnistia generale, i testi internazionali relativi ai diritti dell'uomo, l'organizzazione dei partiti politici e la riforma del codice elettorale. In questa prima seduta erano presenti 195 dei 214 deputati tunisini, 177 hanno votato a favore, 16 contro e 2 eletti dall'RSD si sono astenuti. Un'altra manifestazione che si è tenuta invece sabato scorso, sabato 12 febbraio alle ore 10 davanti al Palazzo di Giustizia, è quella indetta dall'Associazione dei Magistrati Tunisini. Questo sit-in, il cui motto era Giornata della Liberazione della Magistratura, seguiva alla decisione presa dall'Assemblea Generale del 5 febbraio, durante la quale i partecipanti hanno messo l'accento sulla necessità di estirpare i simboli della corruzione del Ministero della Giustizia. Radici, sì, cioè simboli e corruzione, le cui radici si sono comunque ormai diffuse nei tribunali. Alla manifestazione hanno aderito centinaia di avvocati e magistrati, si parla di circa 800 persone, le quali hanno comunque chiesto all'attuale ministro della giustizia di lottare appunto contro la corruzione diffusa durante il regime di Ben Ali. Questo principalmente è il quadro breve e sintetico di quelle che sono state le principali proteste e manifestazioni. Ci sono stati comunque momenti drammatici, scontri e tensioni che alla fine sembrano in alcuni momenti aver permesso alla popolazione di raggiungere i propri obiettivi. Per quanto riguarda i governatori, ricordiamo che molti sono stati allontanati dopo le elezioni, sono stati cacciati, altri si sono dimessi volontariamente. Per quanto riguarda invece le principali notizie relative al mondo politico, ricordiamo che il 30 gennaio torna in Tunisia Rached Ghannouchi, in esilio da 23 anni a Londra. Rached Ghannouchi è il leader del movimento islamista Ennahda, movimento che proprio l'8 febbraio si dota di nuove strutture dirigenti. Si ha questo nuovo comitato costitutivo e un ufficio esecutivo di 13 membri guidati ovviamente da Ghannouchi. Ghannouchi, durante una conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti, rivendica il diritto di essere presente in questo momento sulla scena politica tunisina. Insiste sul carattere pacifico e democratico del movimento, ammettendo gli errori commessi. Il riferimento questo all'aggressione di un guardiano dei locali del partito al potere all'inizio degli anni 90. Però, aggiungendo, senza voler giustificare un tale atto, bisogna sempre considerare che si tratta però di un atto isolato causato dalla repressione selvaggia di cui i nostri militanti sono stati vittime durante il regime di Ben Ali. Più di 1000 islamisti uccisi e più di 30.000 imprigionati dal regime di Ben Ali. Siamo stati criminalizzati dal regime dittatoriale che presentava il nostro movimento come un pericolo al fine di ottenere aiuti e sostegno dai paesi dell'Occidente. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista il movimento Ennahda, il partito, perché comunque si costituirà a breve in partito, ha adottato un atteggiamento quasi giustificazionista nei confronti di episodi di violenza che si sono prodotti, no? Negli ultimi anni. Invece avrebbero potuto benissimo anche rivendicare, come dire, una precocità nell'azione di dissenso nei confronti del regime, cosa che non hanno fatto. Questo è anche un momento di cioè dobbiamo anche riflettere un attimo su questo, esatto. Perché se pensiamo che vige ancora una forte paura negli stessi movimenti islamisti, questo anche in Egitto, poi lo vedremo, nel presentarsi all'opinione pubblica internazionale, soprattutto più che nazionale, come non pericolosi. Qualsiasi atto loro avevano commesso contro il regime era un atto sporadico, come ha detto in questo caso Ghannouchi, perché la violenza era stata, tra virgolette, abbandonata come strumento politico. Quindi in realtà è quasi una dimostrazione della debolezza di questo movimento, che vuole giustificarsi di fronte in particolare all'Occidente per un'eventuale legittimazione istituzionale, no? Cioè, credo che un po' credo, da quello che si sta capendo, che il modello di riferimento per tutti questi movimenti islamisti, che fino a ieri erano, dopo soprattutto le torri, tutta questa cancanna, erano individuati come dei nemici dell'Occidente e come comunque da tenere fuori dai sistemi politici, il modello sia un po' quello di Erdogan, della Turchia, che ha fatto vedere che c'è un Islam moderato in grado di gestire anche democraticamente, come sta facendo in Turchia, un governo di carattere filo occidentale, industrializzato, eccetera, eccetera. Quindi c'è un po' quel modello di riferimento, più che non il modello, diciamo, comunista o rivoluzionario, eccetera. Tant'è che da questo punto di vista ricordiamo che in Turchia, dopo un primo avvento di correnti islamiste al potere, ci fu appunto una sorta di colpo di stato da parte dell'esercito che, garante della laicità dello Stato, aveva interrotto un processo tra virgolette democratico, e in realtà poi in un secondo momento il nuovo partito, diciamo a tendenza islamista, che ora è anche al potere, fu accettato tranquillamente dall'esercito. Quindi in realtà gli stessi esponenti del partito Ennahda, ne abbiamo parlato anche con alcuni di questi durante l'ultima manifestazione che c'è stata domenica scorsa, qui a Roma, e ci sono alcuni esponenti che si trovano anche qui in Italia, propendono per questo modello, certo. Cioè un partito, diciamo, di tendenza islamica, però che occidentale, assolutamente filo occidentale, liberale dal punto di vista del modello economico. Quindi in realtà un partito che poi potrebbe diventare egemonico, nel senso in questo caso negativo del termine, perché prenderebbe le sembianze di un qualsiasi partito istituzionale al potere appunto in Tunisia o in Egitto, no? Sì, è lo stesso Ghannouchi che, appunto, sempre in occasione della ristrutturazione del movimento, dice appunto che il modello a cui si ispira il movimento stesso è quello di un'osmosi tra i valori arabo-islamici e quelli della modernità. Insomma, sì. Ricordiamo, appunto, ne abbiamo già parlato nel nostro ultimo aggiornamento sulla Tunisia, no? di questo forte pragmatismo che anima la corrente islamista in Tunisia. Naturalmente ricordiamo anche che l'avvicinamento, o comunque il modello turco che vuole essere adottato da queste forze è un modello in primis utile e stabile per le potenze occidentali. Quindi il referee, come dire, il punto di riferimento per l'accesso al politico non è una domanda endogena di, come dire, di riforme, ma un consenso a livello internazionale che, secondo gli islamisti del, in questo momento, perché questa è una tendenza islamista che si sta producendo negli ultimi, dagli ultimi 15 anni più o meno, è, risulta necessaria per un consolidamento della propria base sociale e di potere. Sì. E tornando alla Tunisia, parliamo adesso di un episodio singolare che ha interessato il ministro degli affari esteri, Unayes. È successo che durante un'intervista il 4 febbraio del ministro degli affari esteri tunisino con il ministro degli affari esteri francese, Michel Aoun-Marie, il diplomatico tunisino ha, diciamo, fatto una serie di considerazioni, di affermazioni e dichiarazioni abbastanza gravi sia per la politica interna che per la politica estera, insomma, del paese. Ci sono alcuni punti delle sue dichiarazioni in cui il ministro, diciamo, presenta la Tunisia come un paese bisognoso della Francia per portare avanti nel migliore dei modi il processo di democratizzazione in, o comunque di cambiamento in atto, dicendo addirittura in un punto delle sue dichiarazioni che molte delle decisioni importanti nella storia politica della Tunisia sono state, cioè, comunque decise, prese nei palazzi del potere francese. Immagina in questo, sì, è vero, cioè, questo è verissimo, però insomma il fatto di dichiararlo così pubblicamente a pochi giorni, insomma, dalla costituzione del nuovo governo ad interim, immagina in questo discorso un processo di democratizzazione sotto il controllo francese. E lì ritorniamo, insomma, alla classica logica, no? Infatti dice, rivolgendosi proprio al ministro degli affari esteri francese, dice: Madame, mi dica che tutte le risorse intellettuali e diplomatiche della Francia sono, diciamo, a nostra disposizione se, diciamo, ne abbiamo bisogno. Poi, parlando dei tunisini rifugiati in Francia, afferma appunto che loro, cioè la Tunisia, è riconoscente alla Francia per aver accolto, cioè, i figli tunisini cacciati dal loro paese per una parentesi dispotica che per troppo tempo ha alienato la società moderna che abbiamo cominciato, insomma, a fondare nel 1956. Insomma, ci sono altre dichiarazioni, perché il discorso non è, è stato comunque lungo e articolato, che però hanno, diciamo, suscitato l'ira dell'entourage, insomma, del ministro. Infatti dopo queste dichiarazioni a una TV privata, gli stessi funzionari del suo ministero lo hanno cacciato. E poi lui, il 13 febbraio, ha presentato le sue dimissioni, che erano comunque ormai inevitabili. Per quanto riguarda invece le iniziative che si sono, diciamo, prodotte in questi ultimi giorni da parte della popolazione civile e dei partiti politici e di ordini professionali, ricordiamo che c'è stata, diciamo, una riunione in cui si è deciso di creare un consiglio di difesa della rivoluzione, consiglio che raggrupperà rappresentanti dell'UGTT, dell'ordine degli avvocati, dei partiti politici e della società civile. Il suo ruolo preminente sarà quello di preparare le riforme politiche e le prossime elezioni legislative e presidenziali. Insomma, riforme e elezioni che a quanto pare non si terranno prima della metà di luglio prossimo, anche perché le commissioni incaricate delle riforme politiche in questo momento sembrano essere paralizzate. Questo ce lo dice anche Hiad Ben Ashour, che dirige una di queste commissioni e che appunto ci dice, lui professore di diritto nominato dal governo provvisorio per partecipare appunto alla creazione di questo nuovo sistema democratico, che è impossibile per la Tunisia presentare, cioè comunque, delle nuove elezioni realmente democratiche prima di luglio. Il problema principale riguarda l'impreparazione dei partiti, che comunque hanno ancora bisogno di tempo per prepararsi, per preparare un programma elettorale. E quindi possiamo fare un attimo una piccola riflessione anche su questa problematica, nel senso, come poi vedremo anche per il caso egiziano, quali sono le riforme che si chiedono nel contesto, nei contesti dell'Africa del Nord, in questo caso in particolare in Tunisia e in Egitto? Fino adesso, soprattutto in Tunisia, perché a differenza che in Egitto le manifestazioni di carattere socio-economico, le proteste forti di carattere socio-economico non ci sono state, o comunque non sono state della stessa importanza, certo, come in Egitto negli ultimi anni. Ci si concentra sempre, almeno questo è quello che esce poi dopo dalle differenti fonti di informazione che abbiamo potuto consultare, ci si parla sempre di trasparenza del processo elettorale, di riforma della Costituzione, non si parla assolutamente di nessun tipo di riforma socio-economica o comunque di un reale cambiamento delle, non dico dei mezzi di produzione, sarebbe forse eccessivo, insomma, perché non c'è almeno una redistribuzione che invece non si richiede. Oltretutto, questo comitato di cui tu parlavi, questo comitato della rivoluzione, che non è stato ancora creato, a quanto pare, però c'è stato un annuncio, cioè... Dove sono le forze sociali in questo comitato? Ci sono solo esponenti di differenti, come dire, differenti attori politici, comunque in un'ottica riformista, possono essere gli ordini professionali. L'unico che dovrebbe teoricamente essere portatore di istanze sociali, cioè Lucette e te, purtroppo sappiamo, l'abbiamo detto già l'altra volta, un mese fa, che non è assolutamente in grado in questo caso di avere una funzione di leadership, comunque, o almeno di come dire, promotore di riforme sociali effettive, perché tutto l'atteggiamento complessivo che ha adottato l'UGTT, almeno per quanto riguarda i quadri dirigenziali, è stato sempre quello di come dire, collaborare con le istituzioni politiche anche del partito di regime. Non dimentichiamolo, perché da questo punto di vista l'UGTT all'inizio aveva appoggiato anche quel governo che Ghannouchi poi ha dovuto appunto allontanare, sciogliere. Cioè, no? Diciamo che i ministri che facevano poi capo all'UGTT nel primo governo di transizione si sono dimessi. Perché? Perché dopo la contestazione della parte dell'opinione pubblica dello stesso governo, l'UGTT ha deciso di cavalcare la protesta e di spostare comunque l'asse per, diciamo, essere più vicino alla popolazione. Però... Beh, certo, se ne può discutere per quale motivo oggi si rifletta solo su riforme di carattere politico. Sicuramente, almeno questa è la mia opinione, si deve pensare al fatto che la mancanza di attori politici riconosciuti che portino avanti richieste di carattere sociale, o comunque la debolezza di alcuni di questi attori, come per esempio il Partito Comunista dei Lavoratori, no, non il Tajdid di cui abbiamo parlato l'altra volta, ovvero quel Partito Comunista che poi ha avuto un processo tipo PD nostro, nel senso che è sempre stato più istituzionalizzato e volto ad un riformismo liberale. Quindi non vi è una come dire, un catalizzatore e un referente per che possa portare avanti questo tipo di istanze. La popolazione, in realtà, almeno nel suo spontaneismo, nelle sue forme spontanee di protesta, sembra molto attenta. Quando ci sono stati appunto i nuovi governatori che sono stati nominati, la popolazione sa che comunque i collaboratori del presidente Ben Ali, dell'ex presidente, sono ancora ovunque, nelle forze di polizia, nelle regioni, nelle amministrazioni locali. Quindi il timore della popolazione è quello che comunque loro abbiano il tempo di riorganizzarsi, magari sotto un'altra veste, cioè con un altro nome, e magari ripresentarsi. Si contesta, cioè, loro hanno appunto, sì, questa paura, almeno questo è quello che traspare poi da Ma queste credo notizie. Che appunto, questi regimi, anche all'interno del sindacato, i dirigenti del sindacato erano stati mesi, se non sono cambiati nel frattempo, dal vecchio regime, cioè erano comunque accettati dal vecchio regime, da Ben Ali. Sì, nel senso, li selezionava Ben Ali. Assolutamente. È chiaro che loro, come dicevi tu, Anthony, non possono, diciamo, non hanno essere in sé una cultura di trasformazione sociale, perché ma nemmeno tanto di trasformazione, nemmeno politica. Sembra che stiano cercando di fare degli aggiustamenti, però nemmeno dal punto di vista delle forme democratiche, che poi, voglio dire, il problema sembra quasi, cioè, l'Europa del dopoguerra, no? In cui per dar modo al capitalismo europeo di riprendersi dopo la devastazione del secondo conflitto mondiale, si punta ai partiti delle sinistre europee, puntavano a una democratizzazione dell'Europa, che poi però ha dimostrato che non era quello il problema, poi a un certo punto appunto i problemi sociali si sono imposti come tali, ma proprio perché erano stati abbandonati in vista di questa presunta democratizzazione degli stati europei. E come anche negli anni 90, che sono gli anni della democratizzazione in tutta l'Africa, ma non solo, alla fine si è sempre parlato di pure riforme democratiche, cioè elezioni multipartitiche, riforma del codice elettorale, cioè difficilmente hanno preso, c'è stato spazio per discussioni o confronti o comunque per rivendicazioni di carattere sociale. È come se il modello, tutto certo, partisse, cioè comunque dovesse partire primariamente dalla riforma politica per poi eventualmente arrivare, cioè, alla problematica sociale, che poi, cioè, si ribalta, cioè, l'essenza, quello perlomeno che noi sappiamo, che comanda l'economia e poi casomai discende la politica. Vogliono fare, è il vecchio vecchia, secondo me, bugia dei socialdemocratici, di pensare che partendo dal politico puoi trasformare, cioè dando stabilità politica, esatto, si possano rilanciando, insomma, quindi l'economia, poi ci possono essere dei benefici anche per le classi, sì, subalterne, le briciole come al solito, briciole, insomma, che questa è fallita sempre la socialdemocrazia, sì, anche in Africa questa riforma, cioè questa in democratizzazione, insomma. Il problema è che, infatti, dobbiamo anche riflettere poi sulla questione di questi valori di democrazia che vengono, tra virgolette, inculcati nelle popolazioni, o comunque che sono stati oggetto di una propaganda fortissima da parte delle democrazie occidentali nei confronti del popolo. Sì, sì, da parte delle organizzazioni internazionali. E anche in Africa, in realtà, no? Nel senso, il leitmotiv viene sempre, è sempre lo stesso. Quindi, da questo punto di vista, per il momento, anzi, a volte sembrano loro molto più, tra virgolette, democratici di noi, perché quando, cioè, le proteste che ci sono state in Tunisia e in Egitto, ricordiamo, cioè, noi qui ce le scordiamo per ampiezza, di fronte poi a dei regimi che sono molto molto più pervasivi, certo, del nostro, insomma, o comunque sono molto più diretti, diciamo, diciamo così. Quindi lì, e ritorniamo poi alla questione Lucetta e te, la frattura che si è prodotta negli ultimi anni tra una base che ascoltava maggiormente anche a livello empatico le richieste della popolazione e una classe dirigente sempre volta al compromesso con le istituzioni politiche presenti, è una frattura ancora presente. È una frattura che purtroppo emerge solo nei momenti di tensione maggiore, come è avvenuto durante appunto l'insurrezione di questi, che ha portato alla caduta di Ben Ali, come anche appunto alle rivolte che dicevamo del bacino minerario e tutto. In un momento di stanca o comunque di attesa, dove le insurrezioni sono più sparse o comunque i sollevamenti, le manifestazioni, i sit-in sono più frammentati, in quel caso Lucetta e te non sembra capace di essere comunque, di far portatrice di istanze veramente innovative. No, in realtà sembrano tutti impreparati, sono stati tutti colti comunque. Sì, anche perché appunto, cioè, la sprovvista, nessuno ha un programma, nessuno ha in realtà una linea da seguire, e quindi comunque tutti, diciamo, chiedono riforme elettorali, proprio perché sembra la strada, secondo me sembra la strada più facile, quella, sì, insomma, sì, anche più illusoria, loro, però quella più illusoria, certo, illusoria, perché loro così guadagnano tempo, cioè, cercano magari di capire, insomma, come strutturarsi, cosa proporre, cioè almeno sì, è un percorso, diciamo, apparentemente lineare, che in realtà lineare non è, soprattutto anzi è molto lineare anche nelle conclusioni che porterà, perché poi da questo punto di vista, giustamente dicevi bene tu, l'impreparazione, anni di dittature, regimi hanno provocato un azzeramento. Ora non vogliamo dare tutte le colpe, cioè non vogliamo fare un'eccessiva critica delle opposizioni, però ovvio, cioè, il dibattito politico scarseggiato, completamente annullato il dibattito politico, che ha portato ad un effetto soporifero nei confronti dell'opposizione, che fino a questo momento non era riuscita comunque a costruire un discorso programmatico di cambiamento effettivo in queste realtà, e oggi si ritrovano in un cambiamento che, ricordiamolo, portato avanti dalla popolazione in maniera spontanea, senza leadership, cambiamento che però si trova ad un punto morto nel momento in cui, primo step, se ne va via il reis di turno, il leader, il dittatore di turno. Secondo step, che cosa si propone? Subito cambiamento costituzionale. Va bene, vedremo se magari, io spero di sbagliarmi, e che nei prossimi mesi ci sarà davvero, ci saranno delle istanze dei nuovi partiti che proporranno delle alternative effettive. Ce lo auguriamo tutti, insomma. Però per ora la situazione è abbastanza incerta. Cioè, sì, beh, poi c'è anche questa fortissima dipendenza, adesso magari proclamata dall'ex ministro degli affari esteri, dalla Francia, però è reale comunque, cioè i politici sono diciamo, in attesa di aiuti, sostegni da parte dell'Europa, della Francia, sembrano in una sorta di impasse difficile da superare in modo autonomo, insomma. C'è pure a dire che appunto l'economia di questi paesi è veramente devastata, sì, perché lo è stata sempre, sempre sottomessa, diciamo, soprattutto il Maghreb è stato sempre sottomesso alle politiche. L'indipendenza è stata formale, quella data soprattutto dalla Francia, e tutto, soprattutto in quest'ultimo quindicennio, diciamo, di liberismo sfrenato, le loro economie sono azzerate, quindi lì è anche difficile provare a trovare delle riforme socio-economiche in questa fase. In questa fase dovresti, sì, fare dei cambiamenti drastici, secondo me, con delle spaccature notevoli, almeno probabilmente, può darsi l'auspicio che nascano delle forze politiche in grado di concepire una trasformazione radicale, perché solo quella oggi può servire. Non ci sono già i margini, sì, per, sì, un, sì, accontentamento sul modello appunto che ha fatto l'Europa negli anni 60-70, cioè che concedeva qualcosa perché c'erano i margini e quindi metteva a tacere le proteste, le sommosse. Qui non ci sono, quindi rimane chiaro che loro la buttano sul diritto e quindi... Certo, ma anche perché non basteranno riforme diciamo democratiche, perché poi diciamo democratiche nel senso che questo termine, come diceva Anthony, è stato, cioè, utilizzato, è stato oggetto comunque di una propaganda fortissima da parte comunque dell'Europa, degli organismi internazionali, per stessi organismi che però poi allo stesso tempo, cioè, hanno approvato, appoggiato regimi ed elezioni che di democratico praticamente non avevano nulla. Cioè, quindi queste elezioni democratiche trasparenti è da vedere poi realmente, cioè, come si svolgeranno, nel senso, non basta. Certo, già abbiamo visto pure come si stanno muovendo le organizzazioni internazionali economiche al riguardo, sì, no? Il Fondo Monetario, certo, Internazionale, Banca Centrale Europea, già sono appunto pronte a cavalcare il nuovo capo o la nuova leadership istituzionale che si verrà a creare nei prossimi mesi. Si parla di fondi di sviluppo, si parla di aiuti, sì, importanti per l'Egitto e per la Tunisia, affinché appunto si possa risollevare queste realtà da una difficilissima situazione economica. Aiuti e sostegni che naturalmente incrementeranno lo stato di dipendenza di queste realtà, stato di dipendenza che porterà inevitabilmente a un maggiore impoverimento della popolazione, soprattutto. Certo, solamente per la Tunisia si parla di 250 milioni di euro sbloccati dall'Unione Europea, ma non solo, si parla di 500 milioni di euro per le infrastrutture che verranno comunque dati alla Tunisia dalla Banca Europea degli investimenti, insomma. Appunto. Una serie di delle somme, si parla di somme comunque ingenti, che sì, come dici tu, andranno poi a rafforzare la dipendenza della Tunisia da tutti questi organismi, perché appunto Unione Europea, abbiamo visto, Banca Europea di Investimento, la Francia stessa che ha sbloccato 350.000 euro d'aiuti per l'emergenza, ma non solo, c'è la Banca Africana di Sviluppo, cioè tutta una serie di organismi che in questo momento cercano di entrare a far parte di quella che è la scena, cioè, di economica, insomma, di andare a sopperire a dei bisogni della Tunisia, ma che poi probabilmente in seguito, cioè, prestiti che comunque si ritorceranno contro il governo stesso. Oh, e a questo proposito c'era una telefonata di un ascoltatore che proponeva, ma io francamente, sentendo questi giorni in giro, sento che questa preoccupazione o comunque questo interesse è molto diffuso tra i compagni, la gente che segue, chi segue queste vicende, cioè cercare di capire chi, perché molti giornali hanno detto chi c'è dietro queste rivolte, no? C'è sempre questa tendenza un po' complottata. Secondo me c'è una parte di sottocultura complottarda, in Italia è molto radicata, cioè il PC ci ha insegnato quello, la DC pure, quindi, però è giusto porsi questa domanda, chi c'è dietro? E soprattutto, a parte chi c'è dietro, ma che cambiamento degli equilibri internazionali si avranno o comunque sono ipotizzabili in queste proteste, e quindi chi ne gioverà? Ne gioverà l'America, ne gioverà Israele, oppure al contrario i competitori come la Cina sul terreno economico, oppure appunto questo nuovo asse Turchia a Iran. Oggi, leggendo un'intervista, credo sul Manifesto, di un ministro iraniano che era venuto qui in Italia per questioni economiche, quello godeva di gioia perché chiaramente certo. Per ora l'unico che ci guadagna, secondo secondo me è proprio, però questa cosa non mi pare che abbia molto. Allora, per esempio, si parla molto che ci sia lo zampino dell'America dentro queste rivolte, alcuni dicono così, l'ascoltatore vuole sapere questo. A mio avviso è il non so se ci sia, secondo me ne sta uscendo con le ossa rotte. Allora, io vediamo, dai. Allora, una piccola riflessione: dobbiamo fare naturalmente una distinzione tra il caso tunisino e il caso egiziano, per due motivi principalmente. Il caso egiziano, allora, dopo le elezioni che ci sono state nel novembre e del dicembre dell'anno scorso, quindi 2010, e dopo tutti, ci sono state una serie di manifestazioni che in realtà nate già dal 2004 e dalle elezioni presidenziali che si sono prodotte appunto a metà degli anni 2000, e già si parlava del problema della successione di Mubarak, che sta già al quinto mandato. Stiamo parlando quindi di un Rais che dall'81 sta al potere. Lì il peso degli Stati Uniti e della diplomazia americana nel costruire un passaggio, una transizione diciamo stabile nel cambiamento di regime, si avvertiva già. Vi erano stati degli sono scontri. Andati tutte le forze dell'opposizione sono andate, hanno fatto il pellegrinaggio a Washington. Assolutamente. Tra queste forze dell'opposizione, ricordiamolo, è bene ricordarlo, anche i Fratelli Musulmani. Fratelli Musulmani, sì, sì, che hanno delle sezioni, diciamo, anche se autonome, negli Stati Uniti, e che ebbero dei colloqui con l'establishment di Washington già qualche settimana prima del famoso discorso di Obama all'Università del Cairo. Fratelli Musulmani, che erano in prima fila, ricordiamolo, durante il discorso di Obama al Cairo, come indipendenti naturalmente, all'epoca erano ancora un movimento bandito, quindi considerato illegale, quindi vi erano delle, come dire, dei sintomi, delle tracce di questo di questa nuova politica che gli Stati Uniti stavano costruendo. Poi, quindi quella è la situazione egiziana. A mio avviso non immaginavano una transizione così veloce, non si immaginavano uno spontaneismo così forte da parte della popolazione, e questo ha trovato impreparato la diplomazia americana, che, ricordiamolo, durante le insurrezioni stava proprio discutendo con alcuni esponenti dell'esercito, comunque delle forze armate egiziane, proprio negli Stati Uniti, forze armate o esponenti delle forze armate che sono state costrette a ritornare in fretta e furia nel proprio paese per quanto stava accadendo. Quindi vi era un discorso di un processo che si stava architettando per traghettare l'Egitto verso un nuovo, sicuramente, regime amico degli Stati Uniti. Ricordiamolo che l'esercito dell'Egitto è uno degli eserciti maggiormente finanziati dalla politica statunitense, proprio per la funzione geostrategica, geopolitica nella questione. Invece è saltato questo passaggio morbido. Quello è il problema. Non si sa perché. Comunque, Panetta, mi pare che il capo della CIA, durante quelle sommosse, intervistato dai giornalisti, dimostrava, cioè leggeva le agenzie per capire quello che succedeva. Per un segretario della CIA, insomma sì. Non va bene che tu leggi le agenzie, vuol dire che sono stati presi. Che è sfuggita di mano. Quindi lì in realtà c'è stato, a mio avviso, un protagonismo da parte della popolazione che ha costretto la diplomazia americana e anche europea in secondo piano, in questo caso, a riorganizzarsi un attimo per tentare di programmare questo passaggio, e lo sta facendo, ricordiamolo, cioè se l'esercito sta lì, se appunto Suleiman è stato permesso a Suleiman di prendere la vicepresidenza e poi dopo di comunicare la cacciata di Mubarak, è perché vi era appunto un esercito fortemente alleato degli Stati Uniti, esercito che, ricordiamolo, si è impegnato da subito, dopo le prime ore dopo la cacciata di Mubarak, da subito a rispettare i trattati con Israele, a rispettare gli accordi di pace. E quindi un esercito che vuole essere, o comunque vuole presentarsi all'opinione pubblica internazionale e soprattutto ai governi statunitensi e occidentali in generale, come il protagonista della transizione e della stabilità, senza nessun tipo di rottura. Poi, oltretutto, appunto, contesto israeliano, quindi andiamo un attimo sul lato israeliano. Israele inizialmente era molto molto preoccupato, ricordiamolo, Mubarak fino all'ultimo giorno, addirittura quando già stava Sharm el Sheikh ancora sosteneva Mubarak, quindi gli ultimi due esponenti internazionali che hanno facevano dichiarazioni d'amore verso Mubarak erano il ministro degli esteri Frattini, come al solito, che porta sfiga secondo me a questo punto ai regimi arabi, e Israele, che da questo punto di vista sta adesso davvero allertandosi, perché, e sicuramente sarà in primo primo piano nella gestione della transizione, se l'esercito continuerà ad essere protagonista di questa fase di transizione. Per il caso tunisino è diverso. Ricordiamo le dichiarazioni del ministro degli esteri, a parte italiano come al solito. Vabbè, insomma, sostegno a Ben Ali, quello che ha dichiarato Frattini. Ma proprio il ministro francese, che è quello che aveva appunto più legami, che guida più l'Eliseo questa vicenda, che non era in vacanza, ricordiamo, però proprio anche in Tunisia, loro sono rimasti spiazzati, perché comunque c'è il ministro degli affari esteri, fino all'ultimo ha sostenuto Ben Ali, con cui aveva un rapporto d'amicizia storicamente storico e molto profondo. Cioè, le prime rivolte che ci sono state in Tunisia dalla fine del dicembre non erano considerate importanti o comunque così decisive poi dopo per il proseguo che c'è stato nelle settimane successive, quindi lì l'impreparazione secondo me è stata più forte. È normale, è evidente che la situazione dell'Egitto, un cambiamento di regime in Egitto rispetto a un cambiamento in Tunisia abbia un peso geopolitico completamente differente. Assolutamente. No, quindi su questo dobbiamo però anche lì l'America in Tunisia comunque lavorava da dietro le quinte e sempre tramite i contatti comunque con gli esponenti principali delle forze dell'ordine, insomma. E poi non dobbiamo dimenticare, questo poi chiedo a te Serena perché tu sei sicuramente più a conoscenza, cioè del ruolo della Cina nell'Africa. Esatto. La Cina sta comunque investendo un'enormità di capitali, giusto? Sì, questo è un argomento di cui si parla moltissimo negli ultimi anni. Comunque la Cina è molto presente in Africa, nell'Africa nera totalmente ormai, soprattutto in quei paesi che comunque si affacciano sull'Oceano Pacifico. Esatto. Però la Cina so che è anche molto presente in alcuni paesi dell'Africa francofona, come il Benin. Cioè, lì la Cina sta adottando una politica, una diplomazia che è completamente differente da quella degli Stati Uniti. Non è militare, non è coloniale, però è di intromissione economica. È un imperialismo economico netto, a differenza delle potenze occidentali, come anche degli Stati Uniti, che hanno un discorso coloniale dietro, molto radicato anche nella tradizione discorsiva, l'esportazione dei valori democratici. La Cina su questo obiettivamente se ne fotte altamente, non ha mai fatto discorsi di esportatrice dei valori o della democrazia. Ma anche perché è stato un processo molto silenzioso, insomma. Ed è una penetrazione in realtà che sta diventando molto più efficace, cioè nel lungo periodo a mio avviso dovremo poi vedere quanto dovrà essere rivalutato il peso che forse tra 2-3 settimane oppure tra qualche anno, non lo so, il peso della potenza economica cinese in Africa diventerà sempre più importante, quindi vedremo poi nei prossimi anni che cosa succederà. Certo è che questo ruolo di civilizzatore dell'Occidente si sta sgretolando dalle basi, perché se prima era proprio il fattore economico che produceva cambiamento o comunque produceva influenza, adesso lentamente, progressivamente la Cina sta prendendo piede. Sì. Tra l'altro, visto che la questione non ne parliamo specificamente, però sta investendo anche i paesi del Golfo che erano veramente gli immodificabili, gli sembrava veramente delle cose eterne, no? Il Bahrain, anche perché hanno poca popolazione, ricchissimi, quindi una possibilità lì di veramente con l'umano di controllare, e stanno saltando, e lì ci sono le basi americane, quindi io credo che la diplomazia americana è stata presa comunque sicuramente impreparata rispetto a questo passaggio. La confusione che c'è secondo me nella visione imperialista statunitense, in cui ci sono probabilmente 2-3 forze che si scontrano tra di loro, rende praticamente inesistente una politica intelligente statunitense in quest'area. In questo dopo momento, la sconfitta dell'Iraq, che è stato devastato, sì, insomma, chiaramente nell'Afghanistan non se ne parla più, però in Afghanistan è un massacro continuo. Questa cosa, quindi c'è un'impreparazione. L'Europa, a parte la Francia che fa i suoi traffici, però è abbastanza assurda, cioè inesistente, inconsistente in questa fase, quindi c'è questo periodo di sbandamento. Non dice nemmeno di questa fase di transizione, diciamo tra virgolette. No, a parte con dichiarazioni, siamo vicini vicini, però insomma no, assolutamente. Cioè le pressioni esercitate dagli Stati Uniti da questo punto di vista, per esempio in Egitto, erano molto più forti rispetto a quanto fatto dalle potenze europee, ma proprio perché non avevano i mezzi per, tra virgolette, ricattare un qualsiasi paese dell'Africa del Nord. E ora naturalmente vedremo poi che cosa succederà nei prossimi giorni. Non penso che abbiamo il tempo di analizzare in profondità oggi anche la situazione dell'Egitto, che comunque si è abbastanza anche lì. Però ti volevo fare una domanda. Anche perché facciamo così, saltiamo così, perché in realtà il famoso quinto comunicato che vanno a comunicare l'esercito sembra davvero un bollettino. Il quinto comunicato è quello che dice basta con gli scioperi. Allora facciamo un attimo, partiamo da questa cosa qui. Allora, basta con gli scioperi quando andato via Mubarak, quindi diciamo risolta tra virgolette il problema della democrazia, della fine del regime, della fine del despota, si è parlato, dice che c'è sotto, è venuto fuori che c'era l'aumento salariale secco per tutti, per fini differenze. Poliziotti hanno detto noi non reprimiamo più perché ci abbiamo, e era venuta fuori questa numero, il 15% dell'aumento salariale secco. Ma infatti il problema principale, la differenza essenziale tra il caso tunisino e il caso egiziano è che appunto, come dicevamo anche nelle scorse settimane, in Egitto c'è stato un movimento di proteste e di scioperi davvero forte che è nato dal 2004 in poi. Vi erano anche alcuni appunto compagni che sono stati lì in Egitto e che hanno fatto delle corrispondenze durante la settimana tentando di raggiungere quelle zone del delta del Nilo scusate, o del appunto del canale di Suez, per cercare di tastare il terreno sul problema degli scioperi. Quali sono le forze in campo? Allora, manifestazioni spontanee si sono prodotte appunto nell'ultima settimana dopo la caduta dell'11 febbraio di Mubarak praticamente in tutto il contesto nazionale, in primis nella zona del Cairo, del delta del Nilo e di Suez. Nel Cairo, al Cairo c'erano appunto le forze di polizia, come diceva Salvatore, che il 13 febbraio hanno fatto questa inscenato questa manifestazione di fronte alla federazione, di fronte al Ministero dell'Interno, scusate, chiedendo proprio in primis un aumento e un adeguamento delle condizioni salariali. Il ministro degli interni Mahmoud Wahdi, che appunto è al potere, è sceso addirittura in piazza, cosa rarissima, per calmare un attimo la piazza, le forze di polizia che erano andate lì per manifestare, garantendo quasi un raddoppiamento del salario delle forze di polizia. Diciamo che il salario medio dovrebbe essere indicativamente, se non sbaglio, tra i 200 e 250 pound egiziani. Ora, un pound egiziano, se non sbaglio, ammonta a 7 pound egiziani sono più o meno un euro, quindi sì. Cioè, immaginiamo la miseria. Altra cosa che rivendicano le forze di polizia, questo però è molto interessante, è un distaccamento dal controllo dell'esercito. Cioè, l'esercito oggi controlla anche in parte le forze di polizia, e questa è una cosa poi ci dovremmo riflettere anche nelle prossime settimane, perché quando si parlava prima in passato di forze di polizia da una parte che erano pro Mubarak, esercito che invece sembrava neutrale di fronte alle manifestazioni della popolazione, sì, questo è il discorso che ci hanno voluto rifilare e che in realtà volevano in parte anche ascoltare gli egiziani per paura di una forte repressione architettata dalle forze armate. In realtà l'esercito non ha mai smesso di praticare torture e detenzioni, come dire, arbitrarie in differenti luoghi del paese. Esercito che appunto non da solo sta chiedendo alle forze in sciopero di cessare questi scioperi che si sono creati, perché abbiamo detto al Cairo ma anche ad Assiut, quindi nell'Alto Egitto, 13 e 14 febbraio 4.000 lavoratori della compagnia del cemento di Assiut sono scesi, appunto hanno effettuato un sit-in. Erano compagnie che poi erano, come dicevamo l'altra volta, di proprietà dello Stato e che negli anni 80-90, attraverso questi processi di privatizzazione, sono state vendute al miglior offerente, in questo caso una multinazionale messicana. Quindi rivendicavano questi operai di Assiut dei contratti appunto permanenti, perché praticamente lavorano ancora a cottimo, nel senso a giornata, e rivendicavano un miglioramento delle condizioni salariali. Ancora nella zona dell'Alto Egitto, 2000 lavoratori della compagnia di fertilizzanti che si trova appunto sempre nella zona, che chiedevano l'allontanamento del direttore generale. Ricordiamo, molto spesso direttori generali che venivano nominati o comunque avevano il sostegno del regime di Mubarak. Scioperi e sit-in poi in altre città durante tutta la settimana. C'era lo stabilimento della Coca-Cola a Nasr City che appunto ha visto delle manifestazioni importanti, anche se le manifestazioni più importanti sono state ancora nella zona del delta del Nilo, quindi quella fabbrica tessile di cui parlavamo anche la scorsa volta, nella zona di Mahalla El Kubra, quindi del delta, dove ci sono stati 20.000 lavoratori che sono scesi in sciopero, con un sit-in in realtà non partecipato a quanto lo sciopero di qualche centinaia di lavoratori, comunque importante, che chiedeva appunto un miglioramento delle condizioni salariali anche qui, e anche, cosa interessante, delle rivendicazioni importanti contro la federazione sindacale. Una federazione sindacale che è stata anche qui, come l'UGTT durante l'epoca di Ben Ali, strumento di cooptazione, sì, di controllo delle spinte potere che dal basso venivano per rivendicazioni di carattere socio-economico, e che appunto adesso si trova in una condizione di isolamento, nel senso che non ha più quel sostegno che aveva precedentemente, perché l'esercito in questo caso ancora non ha tutte le mani in pasta ovunque, non ha un controllo effettivo della situazione, fa queste dichiarazioni, questi comunicati per cercare di stemperare, di mantenere bassa la, il clima politico e sociale, anche se non sappiamo con quale effetto, questo lo vedremo nei prossimi giorni. Ora, in questo caso la, nella fabbrica di Mahal El Kubra, per esempio, la, la dirigenza ha deciso per una vacanza forzata degli, degli operai per 3 giorni pagata, che dovrebbe essere proprio fino ad oggi, quindi vedremo adesso che cosa decideranno di fare i lavoratori dal, appunto da, da domani. Quali sono quindi le richieste? L'abbiamo detto, soprattutto importante, richiedono anche una nuova rappresentanza sindacale. Questo vedremo che cosa vuol dire, perché da una parte significa che la richiesta non è solo di carattere socio-economico, cioè rivendicano una rappresentanza sindacale effettiva, cosa che poi porterebbe potenzialmente anche a una, come dire, a un differente rapporto di forze all'interno della fabbrica stessa. Sono fabbriche con migliaia di lavoratori, non stiamo parlando di delegati autonomi dalla struttura verticistica, è quello un po' assolutamente che... sì. Quindi dovremmo vedere adesso che cosa, come, quali saranno le pratiche di auto-organizzazione all'interno delle fabbriche, stabilimenti davvero immensi, quindi non sono da trascurare, e che hanno svolto un ruolo di, come dire, apripista per le manifestazioni anche di carattere civile che si sono da parte della società civile, che si sono sviluppate poi dopo dal 2005, poi 2008 fino ai giorni nostri. Quindi questa è un'altra questione importante. Una piccola riflessione dobbiamo farla anche su, appunto, sempre sul parallelismo tra Egitto e Tunisia. In Egitto sembra che le manifestazioni oggi si concretizzino soprattutto contro RSD, esponenti dell'RSD, o meglio, rimasugli dell'RSD che sono rimasti ancora, RSD o il Rassemblamento Costituzionale Democratico, cioè l'ex partito del regime. In Egitto invece non sembra esserci un attacco netto all'apparato burocratico del Partito Nazionale Democratico, che era il partito di regime. Non è così evidente come in, in Tunisia. Poi, in entrambi i contesti vi sono invece un attivismo forte da parte di corporazioni professionali, ordini degli avvocati, magistrati, tant'è che alcune delle richieste fatte dal comitato del 25 gennaio, di Midan Tahrir, come anche da alcune forze dell'opposizione, è una magistratura indipendente che possa rivendicare un controllo sui processi elettorali. Quindi qui organizzazioni professionali e potere giudiziario distaccato dal dal regime. Quindi ci sono appunto una serie di attori civili che appunto sia in Tunisia che in Egitto si attivano con una determinazione sufficiente, attori socio-economici, attori sociali che in realtà più in Egitto che in Tunisia stanno continuando forme di lotta e di protesta contro la situazione. Prendiamo un piccolo stacco musicale. Allora, mezzogiorno in punto, sospendiamo un attimo la trasmissione appunto dell'Africa in Movimento perché c'è stata un'occupazione. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao. A tutte e tutti. Ciao. Stamattina vi racconto un po', sta in quarto municipio, a via Montemeda, un grosso stabile dove avevano sede i servizi del municipio quarto, vuoto ormai da 2 anni, in cui il municipio ha provato a infilare dentro ai primi piani anche un paio di associazioni così per vie, diciamo, come minimo clientelari. E invece stamattina un nutrito gruppo di studenti precari attivisti ha ripreso questo spazio, lo spazio lo stiamo fuori, si chiama proprio Puzzle Welfare in Progress, che l'idea è proprio quella di dare una risposta immediata alla crisi, e una risposta immediata, una parte con uno studentato autogestito, poi vi passerò uno studente di medicina che vi parlerà di questo, ma anche uno spazio proprio per servizi, da appunto un corso di italiano per migranti, visto che l'italiano diventa una delle qualifiche per la cittadinanza, a servizi appunto contro la precarietà, uno sportello legale, ha invece uno spazio di visioni di beni e saperi, uno spazio multimediale. appunto, quindi questa doppia vocazione, spazio sociale, servizi e abitativo, vogliamo caratterizzare questo spazio, però la situazione è tranquilla. Fuori ci sono sia gli scudi che hanno caratterizzato, diciamo, l'autunno degli studenti, gli scudi del famoso book block, ma anche invece degli scudi appunto che parlano di welfare, di reddito, di saperi e di diritto alla casa. Io per ora la smetto qua, ci avremo in caso tempo, certo, di parlare lungo la giornata, anche perché chiaramente la data non è casuale, oggi è corteo contro l'amministrazione, certo, di Alemanno, questa alle 15 risposta, a Piazza Vittorio, esatto, ricordiamo. Questa qua è la risposta anche, insomma, alle politiche di questa amministrazione, certo, l'idea appunto che un pezzo di autogoverno e di welfare ce lo possiamo riprendere subito da noi. Vi passo Gino, uno studente di medicina. Ok, pronto? Ciao, sì. Ciao. Allora, dici così la tua impressione, la tua valutazione su questa occupazione. Sì, allora, io sono uno studente di medicina, oggi abbiamo occupato questa palazzina abbandonata ormai da 2 anni insieme ad altri studenti di ingegneria e di studentali per quanto riguarda la parte studentesca. E l'impressione è molto positiva, perché l'edificio è un edificio di 4 piani, sono diverse stanze ormai da 2 anni inutilizzate. E l'idea è che noi come studenti siamo un pezzo di questo puzzle che andiamo a costruire, che è una risposta concreta alla crisi, che poi diciamo in particolare il 4° municipio e in più in generale il governo non dà risposte concrete ai problemi reali del paese, in particolare della città di Roma, e questo è un modo per costruire al basso un'alternativa che dà via delle risposte concrete a dei problemi, in particolare per quanto riguarda gli studenti. Gli affitti a Roma sono esorbitanti, molto spesso in nero, gli studenti sono costretti a pagare, a fare lavori part time per permettersi di poter pagare, insomma, questi affitti esorbitanti. E l'idea è quella di costruire, poi capendo, insomma, negli ultimi 2 piani, l'ultimo piano, uno studentato con prezzi accessibili, insomma, agli studenti, quindi come forma di risposta concreta ad un problema. Sì, pronto? Sì. Ok. Senti, cioè, la situazione è tranquilla, sì, non ci sono così movimenti strani per ora? No, c'è una volante della polizia, però insomma il livello è molto basso, comunque diciamo la cosa è stata costruita molto bene. Adesso a Luna faremo un'assemblea con tutti gli altri pezzi, tutte le altre realtà che hanno insomma progettato questa occupazione, per capire un po' come gestire e iniziare, insomma, questa alternativa che poi dia delle risposte concrete, quindi sappia anche creare nuovi diritti, un nuovo welfare e insomma quant'altro. D'accordo, allora buona occupazione, ci sentiamo durante la giornata per seguire gli eventi, l'andamento. Gli aggiornamenti. Ok, grazie. Ti ringrazio, ciao. A te, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Intanto andiamo, dopo questa parentesi di questa occupazione, al 4° municipio, ricordiamo, e la manifestazione di oggi pomeriggio, che appunto contemplerà anche questo fatto alle ore 15 a Piazza Vittorio. E riprendiamo la trasmissione Africa in Movimento, andando alla conclusione. Abbiamo messo tantissima carne al fuoco, d'altronde altro non possiamo fare, perché la situazione, io almeno credo così, poi posso sbagliare, ma anche voi l'avete descritta così, è molto, ci sono diciamo, molti soggetti presenti, non unanimi, e molti soggetti che probabilmente dovranno, stante le tensioni esistenti, dovranno manifestarsi, dovranno esserci. Per ora c'è soltanto un tentativo di rimbellettamento, come si chiama, di lifting, sì, dei regimi per presentarsi. Cioè, la situazione è inedita per tutti, in primis, certo, per le forze, diciamo, anche politico sociali che si stanno aprendo su, appunto, con maggiore libertà allo scenario politico egiziano, ma penso anche tunisino. Se pensiamo che in Egitto, proprio ieri, un articolo di un giornale indipendente che si chiama Il Mesre El Yaoum, l'Egitto Oggi, parlava di un proliferare di nuovi partiti che stanno per emergere nella scena politica egiziana, perché se davvero ci sarà questa libertà di espressione, libertà libertà di associazione e tutto, figuratevi voi quante persone tenteranno di costruire dei partitini più o meno sinceri nel portare avanti delle istanze politiche all'interno dello scenario egiziano. Addirittura si parla di 13 progetti di partiti, e i Fratelli Musulmani da una parte dicono che per il momento, naturalmente se ci sarà libertà di azione, loro costituiranno un partito sul modello, come diceva prima Salvatore, anche sul modello turco, ma dissidenti della Fratellanza vogliono costituire altri partiti. Lo stesso anche ad Alessandria, si parla di alcuni esponenti di copti che non vogliono fare partiti di carattere religioso, ma che parlano sempre di partiti con programmi appunto secolari, con programmi economici liberali. Per ora io non ho ancora avvertito la nascita o comunque progetti più intraprendenti, diciamo, anche dal punto di vista del programma politico e sociale. Bisognerà vedere un attimo anche i giovani del 25 gennaio, che forse sono i più intraprendenti, sono quelli che hanno fatto le richieste più nette nei confronti del vecchio regime e dell'establishment attuale del Consiglio Supremo delle Forze Armate, come si organizzeranno, quali decisioni prenderanno, se decideranno di affidarsi ad un esponente di caratura internazionale per avere una stabilità sempre con un governo civile, o se cercheranno di costruire una formazione partitica o politica che tenti anche di coinvolgere le forze sociali che si stanno manifestando nel Delta del Nilo, nella zona del canale. Io credo che dal punto di vista sociale, proprio delle classi sociali, anche se lì possono essere leggermente più sfumate, ma in Egitto mica tanto, è molto simile, perché appunto hai detto tu, ci sono grandi complessi industriali, quindi con classe operaia anche vecchia, cioè di vecchio insediamento. Io credo che attualmente come settori sociali sia il settore legato al commercio quello che oggi è egemone, quindi il famoso popolo del souk, che in questi paesi è molto numericamente molto esteso ed anche più socialmente più evoluto, perché sono paesi nati sul commercio, la cui modernizzazione è nata su questa proliferazione del commercio. Credo, perché in effetti questi partiti che si presentano credo che facciano prevalentemente capo al grande settore della distribuzione del commercio, che lì è molto diffuso. Sì, effettivamente non si è mai sentito nessun partito che abbia rivendicato le manifestazioni operaie, immense operaie che ci sono state, quindi dovrebbe nascere, speriamo che nasca, se c'ha appunto la capacità di dare questa dinamica, e poi vedere anche le alleanze di classe, e che in questa situazione possono anche nascere. Bisognerà vedere appunto anche gli eredi del movimento marxista egiziano come si adatteranno al nuovo contesto. Ci sono delle piccole cellule, si sono molto spesso sparsi tra ONG e appunto come organizzazioni della società civile, quasi rinunciando in parte anche per causa di forza maggiore, per la loro debolezza interna, ad un progetto politico più ambizioso. Quindi dobbiamo davvero stare attenti e guardare, e soprattutto cercare di controllare lì in loco che cosa sta avvenendo. Il problema è che molto spesso i partiti nascono a livello urbano, in ambito urbano, tra Alessandria e il Cairo, nelle cancellerie sono lì, quindi molto spesso anche gli stessi legami con queste zone industriali sono abbastanza deboli. Magari ci sono anche dei processi che non conosciamo, di solidarietà tra forze studentesche e forze operaie o altri settori del lavoro in Egitto, però per il momento, almeno io personalmente, non conosco questo tipo di progetti. In Egitto, come in Tunisia, per ora l'attenzione è tutta sulla appunto riforma della Costituzione. Ricordiamo una Costituzione che nasce nel 71 con la famosa rivoluzione bianca di Sadat, che cercò di fare piazza pulita dei nasseriani, una Costituzione che dà e che ha conferito, attraverso anche emendamenti e modifiche, un potere enorme al Presidente della Repubblica, con appunto sia dal punto di vista esecutivo che giudiziario, sia sulle forze armate che di polizia. Quindi in realtà adesso l'attenzione è su quello, vedremo poi nei prossimi giorni. Noi l'appuntamento ce lo diamo sempre a sabato prossimo. C'è un piccolo problema a sabato prossimo, perché lavoriamo e quindi sarà un po' difficile, se riusciamo a farlo tra due settimane in diretta. Va bene, discutiamo, mica siamo alla Rai, quindi possiamo discutere in diretta anche le vicende. No, d'altronde noi dobbiamo lavorare per campare. Purtroppo, è vero, vabbè, che se non ci vediamo venerdì, cioè sabato, se andiamo sabato, vedremo se il sabato quell'altro ancora, e poi se ci succedono cose durante la settimana ci possiamo sentire. Intanto vi ringraziamo e niente, seguiremo gli avvenimenti per sperare che che abbiano un esito diverso da quello che si sta delineando. E poi si semplifichi un po' questa situazione, che è veramente abbastanza ingarbugliata. Assolutamente sì. Ti ringrazio. Grazie, ciao a tutti.